fuggire, non posso fuggire, non posso fuggire, non posso fuggire, non posso fuggire, non posso fuggire, non posso fuggire, non posso fuggire. Oh.